Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Eccomi qui, buongiorno da Nicoletta e buona Pasquetta a tutti. Oggi sarà una puntata speciale perché sfoglieremo il diario di Essere e Benessere e riascolteremo alcune delle interviste che abbiamo fatto nel corso di questi mesi. Ci sono parole che ci raccontano meglio di altre, parole che non riusciamo a dire, ma ci sono parole che ci hanno aiutato a cambiare, magari ce le hanno dette gli altri, magari siamo state capaci di dirle a noi stessi. Allora dedichiamo questa puntata a tutti coloro che hanno avuto il coraggio di parlare, parlarsi, di cambiare vita, ma anche a chi ha la forza di non cambiarla, perché l'amore è una cosa semplice. E sarò quello che non ti aspettavi, sarò quel vento che ti porti dentro, e quel destino che nessuno ha mai scelto. E poi l'amore è una cosa semplice, e adesso, adesso, adesso te lo dimostrerò. Questo sono io. Ciao Tiziano. Buongiorno a tutti. Mi è piaciuto il tono con il quale hai detto amore è una cosa semplice, del tipo ci credo e non ci credo. Ci credo e non ci credo. Tra l'altro l'amore è una cosa semplice non è solo il titolo di una canzone del tuo ultimo CD, ma proprio di questo secondo libro, il tuo secondo libro. Sì. È vero, ci credo e non ci credo, perché che cosa rende semplice l'amore? A me sembra un sentimento complesso, certo. E anche un po' in difficoltà in questo periodo. Beh, quello è vero, in effetti è anche il motivo per il quale ho intitolato un po' tutto, ho dedicato un po' a tutte le cose che ho fatto questo slogan, un libricino, un piccolo libro, il disco, c'è una canzone, perché secondo me è importante ripeterselo, è una sorta di mantra, no? Come dire, in realtà spesso ultimamente tendiamo a vedere l'amore come qualcosa di complicato, talmente tanto che alla fine lo complichiamo noi. L'amore nasce per semplificare la vita delle persone. Adesso non pensiamo soltanto all'amore di coppia, pensiamo anche all'amore che unisce due fratelli, gli amici, un genitore e un figlio. Per me l'amore universalmente è nato per semplificare l'esistenza dell'essere umano, che poi è un animale un pochino stupido e spesso complica le cose, però diciamo che dobbiamo tornare a pensare che la funzione dell'amore nella vita dell'essere umano è quella di semplificarla la vita. Allora, l'amore è una cosa semplice, così scrive e sostiene Tiziano Ferro. Sostengo, sì. Sì, e quindi è come quando una ha paura dice no, non devo aver paura. Brava. Mi fa paura. Noi ogni giorno cerchiamo così di metterci un po' in gioco, di vedere le cose che possiamo cambiare. Insomma, l'amore sicuramente è una terapia magnifica. Ah, certo, ci sono delle... Non c'è dubbio. Non c'è dubbio. E tu dicevi non solamente l'amore di coppia, ma l'amore in generale. Alberto, ti rispolvero dal lato medico. C'è tutto una cosa a livello biochimico, maggiore ossigenazione, il cuore batte più forte. Sì, in generale. È una palestra assolutamente vitale, l'amore inteso come sentimento che semplifica la vita. Sì, ma noi siamo tra l'altro abituati a pensare magari all'amore degli innamorati, che effettivamente è un'esplosione chimica e ti cambia completamente quello che ti succede dentro e fuori, il modo in cui vedi quello che c'è fuori. Ma non dobbiamo dimenticare che oltre che l'amore è fatto per la nostra vita è fatta per l'amore. Noi nasciamo da un gesto d'amore e le prime esperienze di amore magnifico li abbiamo proprio quando veniamo abbracciati e cullati dalle mani della persona che ci ha messo al mondo. Quello è proprio un imprinting che poi andiamo a ricercare per tutta la vita. Senti, io vorrei parlare a Tiziano scrittore. Tu oggi sei qui come scrittore, ma ad un cantante che scrive canzoni cantate in tutto il mondo, che cosa aggiunge l'esperienza di proprio scrivere sulla carta i tuoi pensieri, parole senza musica, insomma? Sì, quello è vero. C'è da dire, partiamo da un presupposto, che io sono uno scrittore un po' atipico, perché ho pubblicato delle pagine di quaderno, di diario, che scrivo in realtà a prescindere dall'idea di poi di pubblicarle, perché io da quando ho 15 anni riempio questi quaderni, sono proprio i classici quaderni, quelli a righe, quelli sì, da scuola. Ma infatti la copertina sì, è scannerizzata da alcune pagine. Sì. E quindi non ci ho mai pensato. Il primo libro era appunto appunto una raccolta da, diciamo, dal 95 al 2010 di una selezione di pagine che tanto sarebbero esistite. Quindi il bello di questa esperienza è che in realtà è totalmente vergine, cioè è figlia di un flusso di coscienza assolutamente spontaneo e di cose che io avrei scritto anche senza sapere che poi un giorno sarebbero state pubblicate. Per cui, insomma, mi piacerebbe parlarti dell'esperienza di autore di libri in maniera un po' più strutturata, ma in realtà sono un po' così, un po' inconsapevolmente sono diventato scrittore. È bello quando poi rileggi quei diari, li trasformi in documento, diciamo Word, sì, perché li passo io, no? E lì diventa bello selezionare le frasi, a volte ripulirle, perché magari quando uno scrive un diario lo scrive anche, insomma, esagerando, no? Anche nelle parole, nei termini, quindi. E lì diventa bello perché la terapia lì sta nel leggersi con distacco, perché devi appunto registrare dei concetti che però tu hai scritto quando stavi bene, stavi male, eri divertito, eri triste, e scoprirti da osservatore. È stato bellissimo. Ecco, quindi è una terapia che noi possiamo suggerire anche. Fatelo. Dice esattamente che cosa si fa. Si prende un quadernetto. Sì, io l'ho iniziato a fare a scuola, sai, quando magari interrogavano gli altri, c'era quell'ora in cui bene o male non facevi nulla, quindi iniziavi ad appuntare segreti, pensieri, progetti, rabbia, ecco, anche tantissimo sfogare la rabbia, per esempio. Adesso voi ne sapete meglio di me, più di me, però risolvere alcune angosce e alcuni nervosismi nell'ambito della fantasia, buttarli anche proprio oltre che nei pensieri sulla carta, ti aiuta in un certo senso a risolverli, perché riconoscere di provare certi sentimenti scomodi già comunque attenua, perché li tiri fuori e poi, ma chiediamo aiuto allo psicoterapeuta, esatto, lui ne sa di più. E poi lui ha detto: io li tiro, quindi per scriverli devi tirarli fuori. Innanzitutto devi ammetterli. Perché provare la rabbia, provare anche disprezzo ogni tanto. In questo libro, per esempio, affronto per la prima volta una paura che ho avuto, un terrore, cioè essere guidato dall'odio, dal rancore. Ci sono dei momenti in cui io ero terrorizzato dall'idea di provare odio verso qualcuno, perché era una cosa che non avevo mai provato. Ma non è vero che non l'avevo mai provata, l'avevo repressa quella cosa, perché non mi sentivo sufficientemente in grado di affrontarla o all'altezza di confrontarmi con una persona, o di rivendicare rispetto, di rivendicare amore, di rivendicare i miei spazi. Quindi è una cosa sana riconoscere. E si scrive. E poi tu hai detto una cosa secondo me importante, anche a rileggersi a distanza di tempo. Allora, in effetti, Alberto, Tiziano ci sta dando i punti per una terapia, un modo che utilizzate anche voi in psicoterapia. Direi che è proprio la struttura della psicoterapia, cioè le cose che ci fanno male nella vita è perché mentre ci succedono entrano dentro di noi in quell'istante, in quel momento, rimangono impresse e spesso bloccate, cioè non vengono elaborate, e quindi hanno dentro tutta quell'emotività, tutta quella forza, tutta quella potenza su cui noi perdiamo il controllo. Cosa fa il lavoro del diario, come lui ha raccontato, il lavoro del terapeuta? Ti aiuta a rivedere tutto, non più in quel momento, ma in un altro momento. Rivivi quel momento, ma con il te di oggi, il te stesso di oggi, e lo puoi guardare più distanziato, puoi rientrare in quell'emozione, riconoscerla, imparare a gestirla se in quel momento non è successo. E poi era bellissimo questo lavoro di rilettura, perché man mano che tu ti allontani da quell'istante dove eri completamente immerso e impari a prenderne consapevolezza, rivedi tutto con un altro paio di occhiali, tutto si attenua e tutto in qualche modo viene integrato, non più in una memoria fatta solo di emozioni, ma anche di pensieri che attribuiscono significati migliori. Allora, rileggendo l'amore è, puntini di sospensione, è una cosa semplice. L'amore è anche sapersi scrivere e sapersi rileggere, è un gesto d'amore verso noi stessi. Ma io, ironicamente, ho iniziato a farlo, pensate, questa è stata fortuna, perché poi in realtà nel tempo si è rivelata una cosa utilissima per me proprio come persona. Ho iniziato a farlo perché una volta io scrivevo molte lettere e molto spesso non le consegnavo per timidezza, questo nell'adolescenza, e un giorno in un film, non mi chiedete quale perché non lo so, ne stavo guardando guardando uno a caso proprio intorno appunto ai 15 anni, e uno degli attori, una protagonista, dice: no, è inutile scrivere lettere perché magari le si consegna a persone che poi neanche le meritano e tu perdi un pezzo di te, una parte di te. Diari, scriviamo diari, che è meglio, quelli ci rimangono, non vanno persi e ci aiutano poi a riscoprire delle cose, spogli magari appunto dell'emozione, dei sentimenti, e comunque che condizionano il momento stesso. E io non so perché sono rimasto così colpito che ho iniziato a farlo. Hai a visto? 15 anni. Allora, possiamo dirlo anche noi, scrivete diari, sì, proviamo. Sì, sì, eh? Sì. Ma anche poco, ecco, io non è che li scriva tutti i giorni, scrivo magari a cadenza, anche mensile, settimanale, dipende quello che ho da dire. Ma anche c'è una frase, vale sempre la pena. E poi magari rileggendole notiamo le differenze tra noi, sì, quando le abbiamo provate, quando le abbiamo scritte, quando in modo più distaccato, forse più maturo, con maggiore amore nei nostri confronti, certo, proviamo a rileggerle. I tormenti e le domande, a stare bene, a stare male, a torturarmi, a chiedermi perché. La differenza tra me e te, tu come stai bene, io come sto bene. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è. E penso sia un errore. Senti, ma a proposito di amore, secondo te le differenze uniscono, separano in amore? Sì, io ho una teoria particolare. Di solito c'è questa cosa di dire, sai, gli opposti si attraggono. Io non ci credo. Si non... dice anche chi si somiglia si piglia. Sì, esatto, sono due teorie due teorie diverse, uguali e diverse. In realtà io penso che le differenze, almeno per me, le differenze stimolino dentro di te il bisogno di migliorare. Cioè io quando vedo una persona migliore di me in qualcosa, dalle cose più stupide, anche migliore di me a giocare a biliardino, sì, inizio ad osservarla sempre di più, voglio diventare come lei, quindi fa sì che io un po' mi innamori di questa persona, ovviamente sì, con certo, un peso specifico diverso, e fa sì che io comunque la utilizzi come punto di riferimento. Nell'amore è anche così, in fondo se io amo una persona è perché la stimo, è perché mi dà qualcosa, è perché riesce comunque a rappresentare una figura di persona che io in qualche modo vorrei essere. Quindi un po' copiando, imitando le persone che uno stima, che uno ammira, migliora. Per questo la differenza, secondo me, stimola il miglioramento. È una bella palestra. Certo, ma allora... anche al contrario, attenzione, anche le persone che disprezzi, che non ti piacciono, possono essere un buon insegnamento, ovviamente. Poi quelle persone lì farai in modo, certo, di, però evidentemente accanto, trovi in loro una parte, sì, di te che non ti piace, da cui vuoi fuggire. Maurizio, buongiorno da Genova. Buongiorno, buongiorno Maurizio. Siamo pronti? Sì. Lei scrive diari, Maurizio? No, però ne leggo parecchi. Ne legge? Ma che diari legge? Ad esempio, recentemente ho letto versioni di Barley, no? Di Mordecai Richler, e credo che sia un diario bellissimo, ad esempio. Questo... Penso che le persone che si innamorano sentano il bisogno comunque di comunicare queste cose, questo sentimento. Credo che sia ci sia molta antropologia in realtà. E quindi l'amore questo è? Questo mi piace molto. E Maurizio, Tiziano le chiedeva, l'amore è? E quindi l'amore è? L'amore, come ho detto sì, alla vostra assistente, secondo me l'amore è fiutarsi, riconoscersi e poi tanta complicità. Okay. E voler far bene, volere avere certo, un rapporto bello, positivo, costruttivo. Maurizio, lei ce la fa? Lei è innamorato? Certamente. Certamente. Beh, ma noi parliamo non solo di amore di coppia, ma certo, di amore certo, anche nella certo, vita, nelle relazioni, in quello che facciamo. Ci sono tante definizioni di amore. L'amore è il tutto, perché non ci avvolga il nulla, e l'amore è guardarsi allo specchio e vedersi con gli occhi degli altri, ci scrive Paolo da Firenze. L'amore è mangiare un panino col mio compagno di vita sul picco del Circeo in pieno inverno, Sabrina da Sabaudia. Ti arrendo, ogni riferimento è andato via, spariti marciapiedi e le case e colline. Sembrava bello ieri ed io sepolto da un suo bianco, mi specchio non so più che cosa sto guardando. Ho incontrato il tuo e siamo tornati dolce, in questa puntata speciale in cui insieme a Tiziano Ferro, prendendo proprio spunto dal suo libro L'amore è una cosa semplice, stiamo facendo sotto la supervisione di Alberto Pellai una sorta di seduta di psicoterapia, perché ci siamo mossi dalle emozioni che tante volte abbiamo ingabbiate dentro e che poi a cui cerchiamo di dare una traduzione e di vederle. E Tiziano l'ha fatto con il diario, di solito. Ma lo faccio ancora, perché poi devo dire che recentemente, anch'io era tanto che comunque non leggevo comunque questo libro, che poi appunto è un insieme di pagine di diario reali, perché l'avevamo finito ad ottobre, e quindi l'ho riletto adesso e di nuovo mi sono accorto anch'io del forte peso terapeutico che ha proprio la frase l'amore è una cosa semplice nell'economia della mia vita che ha avuto, perché in realtà io mi sono reso conto che sono stato spesso schiavo di rapporti d'amicizia, per esempio, molto morbosi e assolutamente poco sani, poco salutari, che mi hanno appesantito la vita, peggiorato la vita, e quindi quel mantra del quale parlavamo prima in effetti è servito soprattutto a me, cioè ricordarmi, guarda Tiziano, che l'amore è una cosa semplice, cioè l'amicizia, i rapporti ti devono migliorare la vita, se non sono sani possono anche terminare, cioè non è detto. Sì, ed è questo, è difficilissimo. Lo so, è difficile, però se serve sì. Alberto, questa è un'altra parola chiave che vogliamo proprio esplorare con te, cioè dare un taglio. Ma sì, io potrei suggerirvi di nuovo, un po' come in una seduta di psicoterapia, di immaginare che noi possiamo riguardare la nostra vita stando seduti su un treno e c'è il finestrino e fuori tutto scorre, e quindi ogni stazione un po' è quello che ci è successo e noi lo guardiamo da fuori, e in questo viaggio noi possiamo davvero buttare giù dal treno alcune valigie, cioè hanno dentro cose che non ci servono più, perché le teniamo lì dentro a farci male, perché dobbiamo farci così disturbare da quello che sono adesso nella nostra vita. Le possiamo trasformare in un ricordo, perché non possono essere cancellate, ma quello è un ricordo che quando torniamo lì non ci distrugge, bensì ci fa vedere come siamo cambiati. Adesso facciamo un attimo di pausa, poi di nuovo insieme, perché continuiamo a sfogliare il diario agenda di Essere Benessere. Essere Benessere. Eccoci tornati insieme oggi per questo giorno speciale, giornata di Pasquetta, puntata speciale di Essere Benessere. E dopo Tiziano Ferro, adesso una magnifica voce femminile. Come me, come tutte le scelte, come tutte le volte. Lo canta tante volte all'interno della sua nuova hit Tra passione e lacrima. È bellissimo, soprattutto per noi, avere qua tutta per noi Emma, uno dei personaggi dell'anno. Ciao, ciao a tutti, auguri. Auguri, siamo davvero molto felici di averti con noi. Quest'anno tu ne hai veramente fatte di tutti i colori. Dove trovi tutta questa energia, bella Emma? Ma nel sapere che la gente fa piacere vedermi, ascoltarmi, seguirmi, quindi sì, sicuramente ci sono dei giorni in cui vorrei sotterrarmi nel letto, però poi mi rendo anche conto che questo non è un lavoro da fabbrica, quindi c'è chi sta peggio, quindi si fa tutto con tanta volontà e con tanta gioia. Immaginavi, se ripensi a te stessa 3-4 anni fa, che la tua vita sarebbe diventata quello che è diventata? Ma lottavo affinché avvenisse tutto questo cambiamento, però devo dire che la realtà ha superato nettamente l'immaginazione. E immaginavi che il successo avrebbe avuto i suoi lati positivi, ma magari anche i lati negativi che nessuno ti aveva mai raccontato? Beh sì, di solito è un luogo comune, no? Spesso ho sempre sentito parlare che il successo ha dei lati positivi e dei lati negativi, poi tutto secondo me è relativo ai propri punti di vista, e nel mio caso sì, sicuramente ci sono dei lati negativi, ma vengono